A te è tutta diversa, pochi rumori, poca gente in giro. Solo luce accesa e qualche cane che cerca da mangiare. Nella notte sembra tutto uguale, sembra tutto un po' normale. Notte tutti dormono e non c'è casino. Notte è questa, un silenzio generale. La notte è fatta per pensare, per guardare nelle coscienze di chi ha fatto male. La notte è fatta per amare, notte fatta per chi si ama. Notte fa capire qualcosa di noi stessi. Notte fa sognare momenti che non sono nella realtà. La notte come è così, ha una lacrima e un sorriso, ha una chiacchierata e un bicchiere di vino. La notte è così, ha una lacrima e un sorriso, ha una chiacchierata e un bicchiere di vino.